Frances Hodgson Burnett fa parte di quell'incredibile gruppo di autrici inglesi che tra la fine del Settecento e i primi del Novecento resero famosa in tutto il mondo la letteratura, appunto, inglese. Fu romanziera e drammaturga, sebbene la sua fama immortale sia legata a tre romanzi definiti per ragazzi, con la I finale: Il piccolo Lord, La piccola principessa e quello la cui lettura vi propone la scuola delle donne ora, ovvero Il giardino segreto. Una singolare storia, quasi di anticipazione montessoriana, in cui la libertà di movimento e la scoperta di un giardino da coltivare danno senso alla vita di un'orfana e cambiano il suo carattere, facendole scoprire un talento nascosto. Altri romanzi per ragazze e ragazzi dello stesso periodo hanno la natura come protagonista. Si pensi al delizioso Heidi della svizzera Johanna Spyri, nel quale sono le montagne a guarire la piccola Clara malata. Come per tante altre artiste, per esempio la sua contemporanea Louisa May Alcott, fu la miseria che diede alla Hodgson l'impulso iniziale a scrivere. Alla morte del padre, la situazione economica familiare drammatica costrinse la famiglia a emigrare negli Stati Uniti, che però nello stesso periodo stavano vivendo la guerra di secessione, quindi la situazione rimase critica e la giovane Frances cominciò a vendere a una rivista a 10 dollari l'una le sue storie per aiutare la famiglia nel frattempo rimasta orfana anche di madre. Singolare fu nella sua vita il continuo muoversi tra Inghilterra e Stati Uniti. Pubblicava in America e poi viveva per un periodo a Londra, dove i suoi lavori venivano messi in scena senza pagarle i diritti d'autore, poiché l'Inghilterra non riconosceva diritti sulle opere scritte all'estero. La difficoltà ad incassare i diritti sulle sue opere fu un po' il motivo conduttore di tutta la sua vita. Tra l'altro fu proprio grazie a lei che per la prima volta si creò un collegamento tra opera letteraria e adattamento teatrale riguardo i diritti d'autore. Fu infatti lei a dar battaglia legale all'autore di teatro Seebohm, che aveva messo in scena in teatro Il piccolo Lord senza chiederle l'autorizzazione. Economicamente indipendente e ormai famosa, divorziò dal primo marito e dopo qualche anno anche dal secondo. Naturalmente, nonostante la fama, il mondo le fu ostile per la sua vita privata, libera e non convenzionale. Come ad altre meravigliose autrici, citiamo per tutte George Eliot, non le venne perdonato il non avere un regolare matrimonio. Aveva 60 anni quando pubblicò il delizioso Il giardino segreto, riduttivamente definito romanzo per ragazzi, poiché spesso è proprio in quei romanzi che si trovano spunti di alto contenuto spirituale e immaginativo. La storia è una di quelle che accarezzano l'anima. Come abbiamo detto, protagonista vera ne è la natura, che con il suo ciclico rifiorire porta speranza e guarigione anche nei cuori più inaspriti. La protagonista è una indipendente, intraprendente ragazzina di grande forza d'animo, sebbene all'inizio sia davvero antipatica e sgradevole, la piccola Mary si rivela poi indomita e coraggiosa nel superare da sola gli enormi ostacoli che, nonostante la sua giovanissima età, la vita le para davanti. Ecco autobiografica questa della dura infanzia dell'autrice e della sua risolutezza nel darsi da fare senza lasciarsi abbattere. Mary a poco cambia, cambiando anche il mondo che la circonda. La natura del giardino segreto, madre generosa e rigenerante terapeuta, compirà il miracolo di risvegliare i cuori e di rinnovare la inizialmente antipatica Mary con la sua verde grazia. La versione offerta è quella di Crescere Edizioni, anno 2012. Non è nominato l'autore o l'autrice della traduzione. Da Devana, buon ascolto.